Da quanto sapete di Maggie, non sarete sorpresi che ella mettesse una certa esagerazione e caparbietà, un certo orgoglio e improntitudine perfino nella rinuncia. Per lei la vita era pur sempre un dramma nel quale ella esigeva da se stessa che la propria parte fosse recitata con intensità. E così accadde spesso che, eccessiva nelle manifestazioni esteriori, smarrisse lo spirito di umiltà. Spesso mirava a voli troppo alti e cadeva giù con le sue povere piccole ali senza penne, insozzate di fango. Per esempio, non solo si risolse a fare dei lavori di cucito in bianco, con cui avrebbe potuto un poco contribuire ad aumentare i fondi del famoso bossolo di stagno, ma senza rifletterci nel proprio zelo di mortificarsi, andò a chiedere lavoro in un negozio di biancheria a St. Oaks, anziché procurarselo in maniera più privata e indiretta. E non vide se non il torto e lo sgarbo, anzi la persecuzione, nel rimprovero mossole da Tom per questa iniziativa tutt'altro che necessaria. «Non mi piace che mia sorella faccia di queste cose», disse Tom. «Provvederò io che i debiti siano pagati, senza che tu debba abbassarti a questa maniera». Certo, insieme col rispetto umano e con la prosopopea, c'erano anche in questo piccolo discorso una tal quale tenerezza e spirito di protezione, se non che Maggie lo prese in mala parte, svalutando i granelli d'oro, e accolse il rabbuffo di Tom come una delle tante sue croci. Nelle sue lunghe insonnie, pensava sempre che Tom era molto aspro con lei che gli aveva sempre voluto tanto bene. Ma poi si sforzava di non ribellarsi a quell'asprezza e di non chiedere nulla. Questo è il sentiero che tutti preferiamo, allorché facciamo proponimento di abbandonare l'egoismo. Il sentiero del martirio e della rassegnazione, lungo il quale crescono le palme, più invitante che la diritta via della sopportazione, della giustizia e della contrizione, lungo la quale non ci sono allori da raccogliere o da conquistare. I vecchi libri, Virgilio, Euclide e Aldrich, questo frutto raggrinzito dell'albero della scienza, erano stati tutti messi da parte perché Maggie aveva voltato le spalle alla vana ambizione di partecipare ai pensieri dei sapienti. Nel suo primo fervore, ella buttò via quei libri, provando una specie di trionfo di averne superato il bisogno, e se fossero stati suoi, li avrebbe bruciati, sicura di non doversene mai pentire. Leggeva con tanto fervore e costanza i suoi tre libri, la Bibbia, Tommaso da Kempis e L'Annata Cristiana, non più disprezzata come un libro d'inni, che le riempivano il cuore di cadenze sempre ritornanti, e con troppo ardore si studiava di vedere tutta la natura e la vita nella luce della nuova sua fede, per sentire il bisogno di qualche altra materia su cui esercitare la sua mente, allorquando sedeva a confezionare con il suo alacre ago camicie ed altri complicati lavori di cucito erroneamente detti semplici. Tutt'altro che semplici per lei, dato che un polsino o una manica o simili pezzi erano suscettibili di essere cuciti in un punto sbagliato nei momenti in cui la testa era distratta. Diligentemente curva sul suo cucito, Maggie offriva una vista che chiunque avrebbe guardato con piacere. Quella sua nuova vita interiore, malgrado alcune eruzioni vulcaniche delle passioni prigioniere, le brillava sul viso con una luce tenera e leggera, che si aggiungeva come una nuova grazia ai colori e alle forme via via più ricche della sua giovinezza fiorente. La madre si accorgeva del cambiamento con una sorta di sconcertata meraviglia, stupita che Maggie venisse su così bene. Era straordinario che quella ragazza un tempo così ribelle fosse diventata tanto sottomessa, tanto aliena dal far valere la propria volontà. Maggie, alzando lo sguardo dal proprio lavoro, soleva incontrare gli occhi della madre fissi su di lei. La mamma spiava e attendeva la luce del volto giovanile, come se il suo vecchio corpo ne ricevesse un po' del necessario calore. Stava attaccandosi a quella sua grande figliola bruna, l'unico abbellimento della casa a cui potesse ormai dedicare le sue cure e il suo orgoglio, e Maggie, a dispetto del suo ascetico proposito di non portare ornamenti personali, era obbligata a cedere alla madre per quanto riguardava la propria acconciatura e sottomettersi a portare i suoi folti ricci neri, intrecciati in una corona sulla sommità del capo, secondo la ridicola foggia di quei tempi antiquati. Lascia, cara, che la tua mamma abbia questo piccolo piacere, diceva Mrs. Tulliver. In altri tempi ho abbastanza sofferto per i tuoi capelli. Così Maggie, felice di tutto ciò che potesse far piacere a sua madre e animare le lunghe giornate che trascorrevano insieme, consentiva a quel vano ornamento e mostrava una testa da regina sopra le sue vesti logore, per quanto si rifiutasse recisamente di guardarsi allo specchio. Mrs. Tulliver amava di richiamare l'attenzione del padre sui capelli di Maggie e sulle altre inattese virtù di lei, ma questi le rispondeva bruscamente: «Ah, oh, io lo sapevo già benissimo come sarebbe diventata, non è una novità per me. Peccato però che non sia fatta di una stoffa più grossolana, finirà col doversi sprecare, ho ben paura. Non lo potrà trovare un marito che sia degno di lei». E le grazie spirituali e fisiche di Maggie alimentavano la malinconia del padre. Se ne stava seduto abbastanza pazientemente mentre ella gli leggeva un capitolo o timida gli parlava quando erano soli insieme della pena che si sarebbe convertita in una benedizione. Considerava tutto ciò come una manifestazione della bontà di sua figlia, bontà che faceva apparire le sue disgrazie sotto una luce ancor più triste, come quelle che pregiudicavano tutte le possibilità di Maggie nella vita. In un'anima piena di ardenti rancori e di insoddisfatti bisogni di vendetta, non c'è luogo per altri sentimenti. Mr. Tulliver non chiedeva consolazioni spirituali, desiderava liberarsi dall'umiliazione dei debiti e avere la sua rivincita. Libro quinto. Grano e l'olio. 1. Ai fondi rossi. La sala di famiglia era una lunga camera con una finestra a ciascuna estremità. L'una guardava verso il podere sulla Ripple fino alle rive della Floss, l'altra sul cortile del mulino. Maggie, col suo lavoro, stava seduta accanto a quest'ultima finestra quando vide Mr. Wakem che entrava, come sempre, nel cortile, sul suo bel cavallo nero, ma non solitario, come sempre. Qualcuno era con lui. Portava un mantello e montava un grazioso puledro. Maggie ebbe appena il tempo di accorgersi che era Philip di ritorno, e già quelli erano davanti alla finestra, ed egli la salutava togliendosi il cappello, mentre il padre, scorso quel movimento con la coda dell'occhio, si volse vivamente a guardarli. Maggie fuggì subito dalla finestra e salì al piano di sopra col proprio lavoro, perché Mr. Wakem entrava qualche volta a guardare i libri, e Maggie sentiva che un incontro con Philip sarebbe stato privo di qualunque piacere alla presenza dei due padri. Forse un giorno o l'altro avrebbe potuto vederlo e si sarebbero toccati la mano, e lei gli avrebbe detto che si ricordava della sua bontà verso Tom e delle cose di cui egli le aveva parlato nei giorni lontani, quantunque ormai non potessero più essere amici. Maggie non provava alcuna agitazione nel rivedere Philip. Serbava verso di lui la sua infantile gratitudine e compassione, e si ricordava della sua intelligenza, anzi, nelle prime settimane della propria solitudine aveva sempre rievocato l'immagine di lui, tra quelle delle persone che nella vita le si erano mostrate gentili e spesso aveva desiderato di averlo per fratello e per maestro, come avevano insieme fantasticato nei loro discorsi. Ma un simile desiderio era stato bandito insieme con gli altri sogni che vagheggiavano l'appagamento delle sue aspirazioni. Ed ella pensava inoltre che Philip poteva essere cambiato durante il suo soggiorno all'estero, poteva essere divenuto mondano e realmente non importargli più di sentire i discorsi che la poteva fargli. A vero dire, era straordinario come il volto di lui fosse poco mutato. Una copia più grande e civile del pallido, minuto volto del bimbo con gli occhi grigi e gli infantili capelli bruni e ondulati. C'era ancora la vecchia deformità che ridestava la vecchia compassione, e dopo tanto meditare Maggie sentì che veramente avrebbe avuto caro di dirgli qualche parola. Ancora egli poteva essere malinconico come era stato sempre e amare che ella lo guardasse con benevolenza. Maggie avrebbe voluto sapere se gli ricordava quanto i suoi occhi gli piacevano. Con questo pensiero buttò uno sguardo verso lo specchio quadrato, che era condannato a rimanersene sospeso col vetro voltato verso il muro, e fece per alzarsi dalla sua sedia e avvicinarvisi, ma si trattenne Riafferrò il lavoro e tentava di reprimere quei nascenti desideri, forzando la propria memoria a rievocare dei frammenti di inni, finché vide Filippo e suo padre, che si erano rimessi sulla via del ritorno, e poté ridiscendere da basso. Era ormai il giugno inoltrato e Maggie si sentiva disposta a prolungare la sua passeggiata quotidiana, il solo svago che si concedesse. Ma in quello e nei giorni seguenti era stata tutta presa da un lavoro che doveva essere terminato, sicché non aveva mai oltrepassato il cancello e soddisfaceva il proprio bisogno d'aria aperta standosene seduta fuori dalla porta. La meta di una delle sue più frequenti passeggiate, quando non era costretta ad andare a St. Oaks, era un luogo situato dietro la cosiddetta Montagnola, un insignificante rialzo di terreno coronato di alberi lungo un fianco della strada che passava davanti al cancello del mulino di Dorlcote. Dico insignificante perché era poco più alto di una scarpata, ma possono esserci dei momenti in cui la natura fa di un semplice poggio lo strumento di risultati fatali. E perciò vi prego di rappresentarvi quell'alta scarpata coronata d'alberi che formava un luogo ineguale per circa un quarto di miglio lungo il lato destro del mulino di Dorlcote e i ridenti campi di là da questo fino alla Ripple mormorante. Proprio dove il pendio di questo poggio ridiscendeva a livello dei terreni circostanti, c'era un sentiero che girava verso l'alto versante del promontorio e quivi si interrompeva in capricciose trincee e mucchi di ghiaia serviti per lo sfruttamento di una cava di pietra abbandonata da tanto mai tempo che ormai trincee e mucchi di ghiaia si erano ricoperti di rovi e di alberelli, e quei là tappeti erbosi che poche pecore brucavano coscienziosamente. Nei suoi giorni infantili Maggie aveva avuto un sacro terrore di questo luogo, detto dei fondi rossi, e l'era mestiere di tutta la sua fiducia nel coraggio di Tom per consentire ad una escursione fin là ogni buca parendole popolata da visioni di briganti e di fiere selvagge. Ma ora esso aveva per lei quell'incanto che tutti i terreni rotti, che ricordino la rupe e il burrone, assumono per gli occhi abituati a posarsi sulla piana. Massime nell'estate, quando ella poteva sedersi su un verde fossato all'ombra di un ramoso frassino, che si slanciava curvo su di lei, e ascoltare il brusio degli insetti, simili a piccole campane sulla veste del silenzio, o guardare i raggi del sole che attraversavano i rami lontani come volessero cogliere e portarsi via il pigro azzurro di cielo dei giacinti selvatici. In quel tempo di giugno anche le rose canine erano nel loro splendore, e fu questa per Maggie una ragione di più per dirigere la sua passeggiata verso i fondi rossi, anziché verso altri luoghi, nel primo giorno in cui fu libera di andarsene in giro a suo piacere. Vedetela ora, mentre cammina per il suo sentiero prediletto, entra nei fondi per uno stretto passaggio, attraverso un gruppo di pini di Scozia, con l'alta persona e la vecchia veste color lavanda visibili sotto un ereditario scialle di seta nera d'una larga maglia a rete. Ora che è sicura di non essere vista, si toglie il cappello e se lo appende al braccio. Certo, verrebbe fatto di supporre che l'abbia alquanto oltrepassati i suoi 17 anni, forse per la calma, rassegnata tristezza dello sguardo, donde ogni brama e agitazione paiono essersi disparite. Gioventù e salute hanno resistito bene contro le volontarie e involontarie asperità del suo destino. E le notti trascorse per penitenza sul duro pavimento non hanno lasciato visibili tracce. Gli occhi sono liquidi, le gote brune sono sode e tonde, rosse le labbra tumide. Il colorito bruno e la corona dei capelli neri come giada, posata quale fastigio sulla sua alta persona, paion darle una specie di parentela coi grandi pini di Scozia verso cui ella sta guardando, come avesse per loro molta tenerezza. E tuttavia si prova, nel vederla, un senso di disagio, un senso di elementi in dissidio tra i quali sia imminente un urto selvaggio. C'è senza dubbio nell'espressione qualcosa di trattenuto, come spesso si vede sui visi più vecchi sotto cuffie senza frange, espressione in pieno contrasto con la giovinezza che par debba sfavillare in subitanei sguardi appassionati. In quel momento Maggie era tutt'altro che inquieta. Si godeva con calma l'aria fresca, guardando i vecchi pini, e pensava che quelle cime spezzate dei rami erano i ricordi di passate tempeste, le quali non avevano avuto altro effetto se non che i rossi tronchi si slanciassero più alti. Ma mentre i suoi occhi erano ancora volti in su, ebbe la sensazione di un'ombra che si muoveva, disegnata dal sole in tramonto, sul sentiero erboso davanti a lei. E abbassò lo sguardo, con un moto di sorpresa nel vedere Philip Wakem, che dapprima si tolse il cappello e poi, vivamente arrossendo, si avanzò verso di lei e le porse la mano. Anche Maggie arrossì per la sorpresa, che subito si mutò in piacere. Tese la mano e guardò quella figura deforme che stava davanti a lei con occhi franchi e, per il momento, pieni solo del ricordo dei sentimenti infantili, ricordo per lei sempre vivo. Fu lei la prima a parlare. «Oh, mi avete sorpresa!» disse con un lieve sorriso. «Qui non m'accade mai di incontrare qualcuno. Come siete capitato a passeggiare qui? Ci siete venuto per incontrarmi?» Era impossibile non accorgersi che Maggie si sentiva di nuovo una bimba. «Eh sì», disse Philip ancora imbarazzato, «desideravo tanto di vedervi. Ieri ho atteso a lungo sul poggio presso la vostra casa per vedere se uscivate, ma voi non siete comparsa. Allora oggi ho di nuovo aspettato, e quando ho veduto la via che prendevate vi ho tenuta d'occhio e sono sceso dal poggio qua giù. Spero non ve ne avrete a male con me». «Oh no!» disse Maggie con serietà e candore, e proseguiva come se avesse intenzione di farsi accompagnare da Philip. «Sono felicissima che siate venuto, perché desideravo molto un'occasione per parlarvi. Non ho mai dimenticato quanto siete stato buono con Tom tanto tempo fa, e anche con me, ma non ero sicura che voi vi ricordaste così bene di noi. Da allora Tom e io abbiamo avuto un monte di guai, e credo che questo faccia pensare di più a quel che era successo prima. Non posso credere che voi abbiate pensato a me quanto io a voi», disse Philip timidamente. «Sapete, quando ero via, ho dipinto un vostro ritratto, come eravate quella mattina nello studio, allorché mi avete detto che non vi sareste dimenticata di me». Philip estrasse dalle locche nere che le pendevano giù dietro le orecchie, in atto di guardare nel vuoto con occhi strani e sognanti. Era uno schizzo all'acquerello di reale valore ritrattistico. «Oddio!» disse Maggie sorridendo e arrossendo di piacere. «Che bizzarra bambina ero mai! Ricordo com'ero, coi capelli disposti a quel modo e quella veste rossa, somigliavo proprio a una zingara. E temo di somigliare ancora», soggiunse dopo una breve pausa. «Sono come voi vi aspettavate?» Le parole potevano essere quelle di una civetta, ma lo sguardo pieno e brillante che Maggie volgeva verso Philip non era quello di una civetta. Invero, ella sperava che il suo volto d'ora gli piacesse, ma era soltanto un ritorno del suo innato gusto di essere ammirata e amata. Philip incontrò gli occhi di lei e la guardò a lungo in silenzio. Poi disse calmo: «No, Maggie». La luce scomparve un poco dal volto di Maggie e le labbra ebbero un leggero tremito. Le palpebre le si abbassarono alquanto, ma ella non volse il capo e Philip continuò a guardarla. Poi disse lentamente: «Siete molto, molto più bella di quello che io pensavo». «Oh, davvero?» disse Maggie, e il piacere tornava a brillare di un rossore più profondo. Distolse da lui il proprio viso. Fece alcuni passi, guardando diritto davanti a sé in silenzio, come se stesse adattando la propria mente a questa nuova idea. Le fanciulle sono così abituate a pensare che le vesti siano la base principale della vanità, che astenendosi dallo specchio, Maggie aveva creduto ad abbandonare ogni cura dell'apparato, piuttosto che di rinunciare alla contemplazione del proprio viso. Paragonandosi con le giovani signore eleganti e ricche, non le era venuto in mente di poter produrre alcuna impressione col solo suo aspetto. Philip parve gradire quel silenzio. Camminava al suo fianco, guardandola in viso, come se quella vista non lasciasse luogo ad altri desideri. Avevano abbandonato i pini ed erano giunti in una valletta verde, quasi circondata da un anfiteatro di rose canine, da pallido incarnato. ma come la luce intorno a loro s'era fatta più chiara, il viso di Maggie aveva perso il proprio splendore. Si fermò quando furono nella valletta e, tornando a guardare Philip, disse con voce seria e triste: «Vorrei che fossimo potuti essere amici. Voglio dire, se fosse stato bene per noi e fosse stato giusto. Ma questa è la prova a cui sempre io debbo essere sottoposta, di non poter conservare nulla di quel che amavo da bimba. I vecchi libri se ne sono andati, e Tom è indifferente, e anche il babbo. È come morire. Debbo separarmi da tutto ciò che mi interessava quando ero piccola, e separarmi da voi. Non ci sarà concesso più di occuparci l'uno dell'altra, ed era per questo che desideravo di parlarvi. Desideravo di farvi sapere che Tom e io non possiamo in certe cose agire come vorremmo. E che se io mi comporto come se avessi tutto scordato di voi, non è per invidia, né per orgoglio, né per altri cattivi sentimenti». Maggie parlava con un'amabilità via via più triste e i suoi occhi cominciarono a riempirsi di lacrime. L'espressione di pena sempre più profonda sul volto di Philip gli dava una più forte somiglianza con quello che era da fanciullo, e alla compassione di lei faceva sentire più forte il richiamo di quella deformità. «Lo so, capisco tutto ciò che volete dire», le rispose con una voce fatta più debole dallo scoramento. «So quali sono le cose che ci debbono tenere lontani l'uno dall'altra, ma non è giusto, Maggie. Non vi offendete, sono così abituato a chiamarvi Maggie nei miei pensieri. Non è giusto di sacrificare tutto ai sentimenti irragionevoli degli altri. Per mio padre rinuncerei a tante cose, ma non saprei rinunciare a un'amicizia, né ad alcun altro affetto per obbedire a una sua volontà che io non riconosco per buona». «Non so», disse Maggie pensosa. «Spesse volte, quando ero urtata e malcontenta, mi pareva di non dover essere obbligata a rinunciare a nulla, e mi sono spinta fino a credere lecito di rinnegare tutti i miei doveri, ma da ciò non mi è mai venuto nulla di bene. Era uno stato d'animo perverso. Che io possa fare, sono ormai sicura che alla fine preferirei di non ottenere nulla per me, piuttosto che a mio padre. Ma gli renderebbe la vita più difficile se ci si vedesse qualche volta tra di noi», disse Philip, e gli stava per soggiungere qualcos'altro, ma si trattenne. «Oh, son sicura che questo non gli farebbe piacere. Non domandatemi perché, non domandatemi nulla a questo proposito», disse Maggie con voce stretta. «Su certe cose mio padre ha dei sentimenti così violenti, egli è tutt'altro che felice». «E nemmeno io», disse Philip impetuosamente, «io non sono felice». «Perché?» disse Maggie con dolcezza. «In fondo non dovrei domandarvelo, ma ne sono tanto tanto dolente». Philip si rimise a camminare, come se non avesse pazienza di rimanersene lì più a lungo. Uscirono dalla valletta, aggirandosi in silenzio tra gli alberi e le macchie. Dopo quest'ultima parola di Philip, Maggie non ebbe cuore di insistere immediatamente sulla loro separazione. «Io sono stata molto più felice», disse alla fine timidamente, «da quando ho smesso di pensare a ciò che era facile e piacevole e di sentirmi amareggiata perché non potevo avere ciò che volevo. La nostra vita ci è predestinata e lo spirito si libera allorché rinunciamo a desiderare e non pensiamo più che a sopportare quanto ci è toccato in sorte e a fare quanto ci è assegnato». «Ma io non posso rinunciare al desiderio», disse Philip con impazienza. «Mi pare impossibile di rinunziare alle aspirazioni e ai desideri fin tanto che siamo veramente vivi. Ci sono cose che sentiamo essere belle e buone e dobbiamo esserne affamati. Come potremmo mai vivere soddisfatti senza di quelle finché i nostri sentimenti non saranno estinti? Ah, io mi delizio delle belle pitture e anelo di riuscire a farne anch'io. Mi sforzo e mi sforzo, ma non posso realizzare quel che voglio. Questa è una pena per me e lo sarà sempre finché le mie facoltà avranno perduto il loro acume, come occhi invecchiati. E poi ci sono tante altre cose a cui anelo». Qui Filippo ebbe un attimo di esitazione, poi disse: «Cose che gli altri uomini hanno e a me saranno sempre negate. Nella mia vita non ci sarà mai nulla di grande e di bello. Preferirei non essere vissuto». «Oh, Filippo», disse Maggie, «vorrei che non vi faceste di queste idee». Ma il suo cuore cominciò a palpitare di uno sconforto che era un po' quello di Philip. Bene, allora, egli disse, volgendosi vivamente, fissandola in volto con un'espressione supplichevole dei suoi occhi grigi. Sarei contento di vivere se voi mi permetteste di vedervi qualche volta. Poi, trattenuto dall'apprensione che traspariva dal volto di lei, tornò ad allontanare lo sguardo e disse più calmo: Io non ho amici ai quali possa tutto confidare, nessuno che si interessi veramente di me. Se soltanto potessi vedervi di quando in quando, se voi mi permetteste di parlarvi un poco, se mi mostraste che qualcosa sentite per me e che potremmo sempre essere buoni amici e sostenerci a vicenda, allora io potrei giungere ad essere contento della vita. Ma come potrei vedervi, Philip? Disse Maggie con esitazione. Poteva realmente fargli del bene. Sarebbe stato davvero difficile dirgli addio quel giorno e non parlargli mai più. C'era una nuova attrattiva che poteva variare le giornate. Sarebbe stato tanto più facile di rinunziarvi prima che essa si fosse affacciata. Se mi permetteste di incontrarci qualche volta qui, di passeggiare qui con voi, sarei già contento se questo potesse succedere una o due volte al mese. Non nuocerebbe alla felicità di nessuno e addolcirebbe tanto la mia vita. Inoltre, Philip continuò con tutta l'ingegnosa astuzia dell'amore a 21 anni, se c'è qualche inimicizia tra coloro che ci sono prossimi, tanto più noi dovremmo cercare di mitigarla con la nostra amicizia. Voglio dire che con la nostra influenza da una parte e dall'altra potremmo recare un lenimento alle ferite che sono state fatte in passato. Se io sapessi tutta la storia, e non credo che in mio padre ci sia ostilità, penso anzi che egli abbia dimostrato il contrario. Maggie scosse lentamente il capo e rimase silenziosa tra il conflitto dei suoi pensieri. Distinto le pareva che il vedere ogni tanto Philip e mantenere con lui un vincolo di amicizia non solo fosse cosa innocente, ma buona altresì. Forse ella poteva davvero aiutarlo a trovare una certa pace, come l'aveva trovata lei. La voce che così parlava era per Maggie una dolce musica, ma dietro di questa si faceva sentire l'urgente e monotono avviso di un'altra voce, a cui ella aveva imparato a obbedire. L'avviso che simili incontri implicavano il segreto, implicavano il fare qualcosa che l'avrebbe temuto si scoprisse, qualcosa che una volta scoperto avrebbe cagionato collera e pena, e l'ammettere cosa tanto simile a una doppiezza sarebbe stato come macchiarsi l'anima. E tuttavia quella musica tornava a sussurrare, con un'armonia portata dal ritorno di una brezza, persuadendola che tutto il torto consisteva negli errori e nelle debolezze altrui e che il suo era null'altro che vano sacrificio per il male commesso da altri. Era molto crudele per Philip di dover essere respinto a causa di un ingiustificabile desiderio di vendetta contro suo padre. Povero Philip, che già da molta gente era respinto solo perché deforme. L'idea che egli potesse diventare il suo innamorato o che i loro incontri potessero venir biasimati da un simile punto di vista non le era neppur venuta in mente, e Philip leggeva in lei abbastanza chiaramente l'assenza di questa idea. La leggeva con una certa angoscia per quanto Maggie potesse esserne indotta a consentire con minor difficoltà alle sue richieste. Era amaro per lui dover constatare che Maggie, nei suoi riguardi, era quasi altrettanto franca e senza riserbo quanto l'era stata da bimba. Non posso rispondervi né sì né no, disse ella finalmente, voltandosi e riprendendo la strada per cui era venuta. Devo aspettare, per non prendere una decisione sbagliata. Bisogna che io trovi una linea di condotta. Posso dunque tornare domani o posdomani o la settimana ventura? Credo che sarà meglio che io vi scriva, disse Maggie di nuovo esitando. Ho da andare qualche volta a St. Oaks e posso mettere la lettera alla posta. Oh no, disse Philip vivamente, questo non converrebbe. Mio padre può scoprire la lettera e non che abbia dell'ostilità, credo, ma vede le cose in maniera diversa dalla mia e gli dà una grande importanza alla ricchezza e alla condizione sociale. Lasciate che vi veda ancora una volta qui, ve ne prego. Ditemi quando, o se non potete dirmelo, verrò quanto più spesso mi sarà possibile finché mi riuscirà di vedervi. Credo che bisognerebbe fare così, allora, disse Maggie, perché non posso avere l'assoluta certezza di venire qui una sera piuttosto che un'altra. Maggie trovò un grande sollievo nell'aggiornare la decisione. Era libera ormai di godersi quei minuti di intimità, anzi pensò che poteva prolungarli un poco. La prossima volta che si sarebbero visti doveva contristare Philip, comunicargli la propria decisione. Non posso a meno di pensare, gli disse, guardandolo con un sorriso dopo qualche minuto di silenzio. È come strano che ci siamo incontrati e parlati, quasi fosse ieri che ci siamo separati all'Orton. E sì, che dobbiamo essere molto cambiati in questi 5 anni. Credo che siano 5. Com'è che voi avevate quasi l'aria di pensare che io fossi la stessa Maggie? Io già non ero altrettanto sicura che voi foste il medesimo. So che siete tanto intelligente e dovete avere imparate e vedute tante cose che vi adornano la mente. Non ero affatto sicura che poteste ancora provare qualche interesse per me. Non ho mai avuto il più piccolo dubbio di non trovarvi uguale se un giorno avessi potuto rivedervi, rispose Philip. Uguale, dico, in tutto quel che mi ha fatto voler bene a voi più che a qualunque altra persona. È una cosa che non ho bisogno di spiegarvi. Credo che le più forti impressioni di cui la nostra natura è suscettibile non possano mai venir spiegate. Impossibile di scoprire le vie per cui sono giunte a noi, né il modo come esse agiscono su di noi. Il più grande dei pittori ha dipinto una volta sola un fanciullo misteriosamente divino, egli non avrebbe saputo dire come aveva fatto, né noi sapremo dire perché lo sentiamo divino. Credo che ci siano, nella nostra umana natura, dei giacimenti profondi di cui l'intelligenza non può fare l'inventario completo. Certi accordi musicali mi toccano così stranamente che io non posso udirli senza che si mutino per un certo tempo tutto il mio stato d'animo. E se questo effetto durasse, io potrei diventare capace di eroismi. Ah, lo so quello che volete dire della musica, io pure lo sento, disse Maggie, congiungendo le mani con la sua impetuosità di un tempo. Perlomeno, soggiunse con voce rattristata. Provavo di queste sensazioni quando potevo ascoltare della musica. Ora non ne sento più, tranne che l'organo in chiesa. E ne avreste desiderio, Maggie? Disse Philip, guardandola con affettuosa pietà. Ah, ben poco deve esserci nella vostra vita di ciò che è bello. Avete molti libri? Vi piacevano tanto quando eravate una piccola bimba? Erano tornati nella valletta intorno alla quale crescevano le rose canine e si fermarono entrambi presi dall'incanto della favolosa luce serale riflessa da quei cespiti rosati. No, ho fatto a meno dei libri, disse Maggie, fuorché di pochissimi. Philip aveva già estratto dalla tasca un piccolo volume e guardandone il dorso disse: Ah, ecco, questo è il secondo volume, altrimenti non vi sarebbe forse dispiaciuto di portarvelo a casa. Me lo sono messo in tasca perché sto studiando un soggetto per un quadro. Anche Maggie aveva guardato il dorso del libro e ne aveva veduto il titolo che le ravvivò con forza prepotente una vecchia impressione. Il pirata, disse, prendendo il libro dalle mani di Philip. Oh, l'avevo cominciato una volta. Sono arrivata fin dove Minna passeggia con Cleveland e non ho mai più potuto leggere il resto. L'ho continuato nella mia testa e ho supposto parecchi finali, ma erano tutti tristi. Non sono mai riuscita a immaginarmi un lieto fine con quel principio. Povera Minna. Vorrei sapere qual è la vera fine. Per tanto tempo non ho potuto togliermi di mente le isole Shetland. Mi pareva di sentire soffiare contro di me il vento del mare in tempesta. Maggie parlava rapidamente, gli occhi le scintillavano. Portatevi a casa il libro, Maggie, disse Philip, guardandola con delizia. Per ora non ne ho bisogno. Farò, invece, il vostro ritratto tra i pini di Scozia e le ombre che precipitano. Maggie non aveva inteso una parola di ciò che gli aveva detto, era assorta nella pagina su cui aveva aperto il libro, ma d'improvviso lo richiuse e lo restituì a Philip, scrollando il capo con un moto all'indietro, come se volesse dire via alle visioni sospese. Tenetelo, Maggie, disse Philip con insistenza, vi divertirà. No, Grazie, disse Maggie, respingendolo con la mano e proseguendo il cammino. Mi farebbe riamare questo mondo come un tempo, mi rimetterebbe il desiderio di vedere e di sapere tante cose. Ah, mi farebbe anelare ad una vita completa. Ma voi non rimarrete per sempre chiusa nella vostra attuale situazione? Perché far morire così di inanizione il vostro spirito? È un ascetismo gretto, non mi piace di vedervici ostinata, Maggie. La poesia e l'arte e la scienza sono sacre, eppure. Oh, ma non per me, non per me, disse Maggie, camminando più in fretta, perché vorrei troppe cose. Debbo aspettare, questa vita non durerà tanto a lungo. No, non fuggitemi così senza avermi detto addio, Maggie, disse Philip quando raggiunsero il ciuffo dei pini di Scozia ed ella seguitava tuttavia a camminare senza far parola. Io non debbo venire più in là, è vero che non debbo? Oh no, me lo scordavo. Addio, disse Maggie fermandosi e tendendogli la mano. Questo atto riportò i suoi sentimenti verso Philip ad un trasporto violento. E fermati che si furono per qualche momento, guardandosi null'altra in silenzio e serrandosi le mani, ella disse, ritraendo la sua: Mi sono tanto grata d'aver pensato a me per tutti questi anni. È così dolce avere della gente che ci vuol bene. Mi pare una strana, una meravigliosa cosa che Dio abbia formato il vostro cuore in modo che voi vi possiate interessare di una bizzarra piccola ragazza che avete conosciuta solo per qualche settimana. Mi ricordo di avervi detto che credevo vi interessaste a me più che a Tom. Ah, Maggie, disse Philip, voi non potrete mai volermi tanto bene quanto ne volete a vostro fratello. Forse no, disse Maggie con semplicità. Ma vedete, la prima cosa di cui mi ricordi nella mia vita è di un giorno che ero con Tom sulla riva della Floss ed egli mi teneva per mano. Prima di allora tutto è oscuro in me. Ma non mi dimenticherò mai di voi, quantunque sia necessario che restiamo divisi. Non dite così, Maggie, rispose Philip. Se per 5 anni ho tenuto nell'anima mia quella piccola fanciulla, non mi sono meritato qualche cosa da lei, non dovrebbe distaccarsi completamente da me. No, se io fossi libera, disse Maggie. Ma non lo sono. Debbo rassegnarmi. Esitò un momento e poi soggiunse. E volevo dirvi che sarà meglio che non abbiate rapporti con mio fratello, se non di semplice saluto. Mi ha detto una volta che non dovevo parlarvi mai più e non ha mutato avviso. Dio mio, il sole è tramontato. Sono stata fuori troppo tempo. Addio, gli diede la mano ancora una volta. Tornerò qui tutte le volte che mi sarà possibile, finché vi rivedrò, Maggie. Abbiate un poco di pietà per me, come ne avete per altri. Sì, certo, disse Maggie, fuggendo via e scomparendo rapidamente dietro l'ultimo pino. E tuttavia, lo sguardo di Philip rimase ancora fisso in quella direzione per parecchi minuti, come se la vedesse ancora. Maggie rincasò, e già un intimo conflitto si era iniziato dentro di lei. Oh, Philip tornò a casa per non fare altro che ricordare e sperare. A stento, voi vi difenderete dal biasimarlo con severità. Era di 4 o 5 anni più vecchio che Maggie e la piena coscienza che gli aveva dei propri sentimenti verso di lei doveva aiutarlo a prevedere il carattere che quei suoi vagheggiati incontri avrebbero assunto nell'opinione di una terza persona. Ma non dovete supporlo capace di volgare egoismo. Dovete pensare che egli non poteva sentirsi contento se non a patto di persuadersi che stava cercando di infondere un po' di felicità nella vita di Maggie e che mirava a ciò più che a qualunque altro fine personale. Poteva offrirle della simpatia, poteva offrirle dell'aiuto. Nell'atteggiamento di lei non c'era neppure la più lieve promessa per lui di amore. Non c'era nulla di più per la dolce, infantile tenerezza che lei gli aveva mostrato quando aveva 12 anni. Forse non l'avrebbe mai amato, forse nessuna donna l'avrebbe mai amato. Ebbene, a questo egli si sarebbe saputo rassegnare. Avrebbe avuto almeno la felicità di vederla, di sentirsi un poco vicino a lei. E teneva chiusa in sé, appassionatamente, l'aspirazione che ella potesse amarlo. Forse quel sentimento si sarebbe sviluppato, ove ella fosse giunta a far partecipe anche lui di quell'attenta tenerezza a cui per natura era così vivamente proclive. Se qualche donna poteva amarlo, certamente Maggie era quella donna. C'era in lei tanta ricchezza di amore e nessuno che gliela reclamasse intera. E poi quale peccato che un'anima come quella dovesse inaridirsi nella prima giovinezza, come un giovine albero di foresta, per mancanza della luce e dell'aria entro cui era destinato a fiorire. Non poteva egli scongiurare questo peccato, dissuadendola dal suo sistema di rinunzia. Sarebbe stato per lei l'angelo custode. Avrebbe fatto qualunque cosa avrebbe sofferta per lei, fuorché di non vederla. 2. Zia Glegg impara a sue spese la larghezza del pollice di Bob. Mentre i tormenti di Maggie s'erano quasi interamente impossessati dell'anima sua, e un esercito di ombre battagliavano le une contro le altre, e quelle già per sempre abbattute risorgevano, Tom era impegnato in una milizia più sudata e rumorosa, a corpo con ostacoli più concreti e conseguendo più definitive conquiste. Così è stato sempre, fin dai giorni di Ecuba e di Ettore, domatore di cavalli. Le donne entro le mura, sparsi i capelli e levate le palme, offron preghiere, spiando di lontano la battaglia del mondo, riempiendo di memorie e di ansie le lunghe giornate vuote, e gli uomini fuori, in fiera lotta con le cose divine e umane, facendo tacere le memorie nella più forte luce dei propositi, dimenticando il senso della paura e perfino il bruciore delle ferite nel concitato ardore dell'azione. Tom, da quel che avete veduto di lui, non credo sia un giovane di cui possiate prevedere l'insuccesso in ciò che ha fortemente voluto. Gli scommettitori terranno probabilmente per lui, nonostante gli scarsi risultati negli studi classici, perché Tom non aveva mai desiderato di riuscire in questo campo, e per ottenere una bella e rigogliosa fioritura di stupidità non c'è niente come cacciare dentro una testa una buona dose di materie per cui essa non prova alcun interesse. Ma ora il saldo volere di Tom potrà allearsi con la sua dirittura, la sua fierezza, i suoi rimpianti familiari e la sua ambizione personale per fare di tutto ciò una sola energia, capace di concentrare i propri sforzi e di superare ogni scoraggiamento. Lo zio Dean, che lo sorvegliava da vicino, cominciò presto a concepire delle speranze su di lui e a sentirsi alquanto fiero di aver introdotto tra il personale della ditta un nipote che pareva tagliato in una così buona stoffa di commerciante. L'avergli fatto iniziare la carriera nei magazzini era segno di vero interessamento, come Tom capì ben presto, attraverso le allusioni che lo zio cominciò a lasciar trapelare, che dopo un certo tempo si sarebbe forse potuto dargli, in determinate stagioni, l'incarico di far dei viaggi, ad acquistare per la ditta certe volgari mercanzie che non ho bisogno qui di nominare per non urtare i vostri orecchi delicati. In vista senza dubbio di un simile risultato, Mr. Dean, quando supponeva di poter rimanere solo a bersi il proprio vino, diceva a Tom di entrare e di sedersi un'oretta con lui e trascorreva quell'ora a istruirlo e catechizzarlo sugli articoli di esportazione e di importazione, con occasionali digressioni di più indiretta utilità sui rispettivi vantaggi che i mercanti di St. Oaks avevano di trasportare le loro merci su battelli propri o forestieri, argomento su cui Mr. Dean, come armatore, gettava naturalmente parecchia luce quando era riscaldato dalla conversazione e dal vino. Già nel secondo anno il salario di Tom era stato cresciuto. Ma, tolte le spese del vitto e dei vestiti, tutto confluiva a casa nel bossolo di stagno, ed egli sfuggiva alle compagnie per tema lo trascinassero suo malgrado a spendere. Non già che Tom fosse modellato sul tipo banale dell'apprendista sgobbone, aveva un vivo appetito di godimenti, gli sarebbe piaciuto di domare dei cavalli, di far bella figura agli occhi di tutti i vicini, di offrire favori e benefici con giudiziosa liberalità, ed essere considerato uno dei più eleganti giovanotti del luogo, anzi era deciso presto o tardi di riuscirvi, ma la sua sagacia pratica lo avvertiva che i mezzi per una tale riuscita consistevano esclusivamente nell'attuale sua astinenza e severità verso se stesso. C'erano da varcare certe pietre miliari e una delle prime era il pagamento dei debiti paterni. Fissatosi su questo punto, andava diritto, senza deviazioni, assoggettandosi ad una tal quale austerità, piuttosto melanconica, come si conviene ad un giovanotto su cui pesi prematuramente l'obbligo di non contare che su se stesso. Tom sentiva intensamente quella solidarietà col proprio padre che scaturisce dall'orgoglio familiare, ed era risoluto a condursi da figlio irreprensibile. Ma la sua crescente esperienza lo induceva ad ammettere molte tacite critiche sulla temerarietà ed imprudenza della condotta del babbo in passato. Le loro disposizioni reciproche non erano di simpatia, e il volto di Tom non si mostrava granché radioso durante le poche ore che gli trascorreva in casa. Di lui, Maggie aveva un sacro terrore contro il quale lottava come cosa ripugnante ai suoi convincimenti, i quali erano improntati ai più larghi pensieri e più profondi motivi. Ma lottare non le serviva a nulla. Un carattere in armonia con se stesso, che vada in fondo a ciò che si propone, domina ogni istinto contrastante e non si perde in visioni al di sopra di quel che è distintamente possibile. È forte proprio in virtù di ciò che nega. Voi potete immaginarvi che la dissomiglianza, sempre più pronunziata, di Tom da suo padre, fosse fatta apposta per conciliargli le zie e gli zii materni, e le favorevoli relazioni e pronostici che Mr. Dean faceva a Mr. Glegg sulle buone attitudini di Tom per gli affari cominciarono ad essere discussi tra di loro con vario favore. Tom, con ogni probabilità, era uomo da fare onore alla propria famiglia, senza cagionarle spese né disturbi. A Mrs. Pallet era sempre parso strano che l'eccellente fisico di Tom, tutto un Dodson, non dovesse dare affidamento di una buona riuscita. Mentre le giovanili aberrazioni di quando dava molestie al pavone e in generale il suo scarso rispetto per le zie stavano soltanto a indicare quella lieve tinta di sangue Tulliver di cui si sarebbe certamente spogliato con gli anni. Mr. Glegg, che si era sentito nascere una cauta simpatia per Tom, fin da quando gli aveva dimostrato un contegno così giudizioso e sensato in occasione della vendita dei mobili di casa, stava ora accalorandosi nel proposito di aiutarlo attivamente per il suo avvenire, allorché, ben inteso, si presentasse il destro di farlo in maniera prudente, senza alla fine ci si dovesse perdere nulla. Ma Mrs. Glegg osservò che lei non era portata a parlare a vanvera come certa gente, che chi meno parla più ha probabilità di vedere giustificate le proprie parole e che, venuto il momento buono, si sarebbe poi visto chi saprebbe fare qualcosa di meglio che delle chiacchiere. Zio Pallet, dopo una tacita meditazione durata il tempo di parecchie pastiglie, giunse alla netta conclusione che quando un giovanotto aveva l'aria di riuscir bene era meglio di non immischiarsi nei fatti suoi. Tom, frattanto, non aveva mostrato l'intenzione di voler contare su altri che su se stesso, quantunque con una naturale sensibilità a tutti gli indizi di un'opinione favorevole. Fosse lieto di vedere che talvolta, durante le ore di lavoro, zio Glegg lo guardava amichevolmente, e lieto di essere invitato a pranzo a casa di lui, ancorché di solito rifiutasse, col pretesto che non era sicuro di giungere puntuale. Ma da un anno circa, qualcosa era intervenuto che indusse Tom a mettere alla prova le amichevoli disposizioni dello zio Glegg.